Europa 24. Un saluto da Gigi Donelli. Accordo fatto, dunque, raggiunto nella notte dopo 16 ore di negoziati, quello tra Consiglio, Parlamento e Commissione sul bilancio 2014. Un accordo che abbiamo già visto, di fatto non soddisfa completamente nessuno, ma che era importante raggiungere anche per evitare, per scongiurare il cosiddetto rischio di shutdown europeo. Allora, al microfono di Laura Bettini, l'europarlamentare Giovanni La Via, membro della Commissione bilancio e capo delegazione italiana del PPE. Il rischio shutdown accantonato per la grande battaglia fatta dal Parlamento, che da un lato si è battuto per avere dagli Stati membri gli 11,2 miliardi di euro del primo DAB, che sono stati poi divisi in due parti, ma nel complesso con il bilancio rettificativo numero 8, altri 3,9 miliardi che voteremo alla prossima plenaria insieme al bilancio, riusciamo a chiudere i fabbisogni di stanziamenti di pagamento per quest'anno. Come avete superato la questione dei 400 milioni da destinare ai paesi membri colpiti da catastrofi naturali? Questo l'abbiamo risolto così. I 400 milioni di euro sono divisi di fatto in tre pacchetti diversi. 200 milioni di euro derivano dallo storno globale, 50 milioni di euro dalla redistribuzione di risorse non utilizzabili in altre misure e 150 milioni di euro sono soldi freschi che gli Stati membri mettono in aggiunta al bilancio 2014. Ci sono risorse anche per Frontex e l'immigrazione? Sì, sì. Allora abbiamo rafforzato l'agenzia Frontex, abbiamo rafforzato l'Asylum Office, abbiamo rafforzato sia in termini di maggiore unità di personale, così come richiesto da queste agenzie, sia in termini di risorse economiche. Lei mi pare soddisfatto di questo risultato? Allora, quando l'anno scorso abbiamo approvato il bilancio del 2013, del quale sono relatore, eravamo con un po' di amaro in bocca perché avevamo dubbi che saremmo riusciti a implementare il bilancio. Siamo arrivati vicini perché è dovuto intervenire Barroso in aula di fronte al Consiglio per dire che eravamo allo shutdown. Alla fine siamo riusciti a metterci 15 miliardi di euro in più. Allora diciamo che è passato il tempo dell'austerità? Sicuramente questo pensiero rimane forte all'interno degli Stati membri, perché molti Stati membri sono legati ad un concetto di riduzione della spesa comunitaria. Conferenza consacrata alla lotta contro la disoccupazione giovanile in Europa, oggi a Parigi, su invito del presidente François Hollande, 24 dei 28 capi di Stato e di Governo dell'UE partecipano a questo incontro, difatti inizia in questi momenti, sono presenti tra gli altri Angela Merkel e il presidente del Consiglio italiano Letta. Questa mattina il presidente francese ha ricevuto una delegazione di rappresentanti delle organizzazioni giovanili europee, tra loro c'era anche Giuseppe Porcaro, che è segretario generale dello European Youth Forum, che ci racconta così l'incontro. Se non riparte l'intera economia del continente, non possiamo parlare di più impieghi, più lavoro per i giovani. E soprattutto non possiamo parlare di più impieghi di qualità. Secondo, abbiamo parlato dell'importanza delle competenze che i giovani devono avere per accedere a un mercato del lavoro e per accedere a dei lavori di qualità. Competenze da acquisire, a parte con i sistemi di formazione tradizionali, anche con apprendistati e stage di qualità, ma anche l'acquisizione di competenze attraverso, per esempio, l'impegno di volontariato in associazioni e movimenti giovanili che, secondo uno studio fatto dal Forum Europeo della Gioventù con l'Università di Bath, è provato che alcune competenze come leadership, project management, team building sono essenziali per il mercato del lavoro e non vengono apprese nei sistemi di istruzione normali. Come sempre ritrovate tutto su radio24.it, ora è tempo di parlare di sport, dunque tutti convocati, con noi l'appuntamento è per domani alle 14. Europa 24, in collaborazione con Euronet Plus.